Urne aperte da oggi in ben 22 stati americani per decidere oltre il 40% dei delegati democratici e repubblicani, gli stessi che nomineranno sul finire dell'estate i due sfidanti ufficiali alla Casa Bianca. L'incertezza è totale in Casa Democratica. Gli ultimi sondaggi danno un testa a testa sul filo del rasoio tra Hillary Clinton e Barack Obama. Il senatore afroamericano, secondo la CNN, avrebbe non solo colmato nelle ultime settimane l'ampio divario che lo separava dall'ex First Lady, ma avrebbe addirittura guadagnato 3 punti sulla rivale. Un ribaltone che, se confermato, sarebbe clamoroso. Difficilmente comunque dalla Super Martedì uscirà un candidato definito in Casa Democratica, dove gli occhi sono tutti puntati sulla California, stato chiave col suo ricco bottino di 370 delegati. Diversa la vigilia in Casa Repubblicana, in cui, a dispetto della conta attuale dei delegati che vede un testa a testa tra i favoriti John McCain e Mitt Romney, tutti i sondaggi danno il primo come sicuro vincitore. A McCain andrebbe quasi il 50% dei voti su scala nazionale, il che consentirebbe al veterano di guerra di ottenere già oggi l'investitura ufficiale repubblicana alla Casa Bianca. Sergio Nava, GR24, Il Sole 24 Ore.